Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siete in ascolto di 451 frammenti sonori, trasmissione dedicata alla sperimentazione e alla ricerca sonora. Un saluto ovviamente dai due conduttori, in primis Max Macchia. E in secondis, come parli? Ma cioè, che roba è? No, è una presentazione formale, dai. Sì, no, ma soprattutto non si sente niente in sostanza di quello che stai dicendo. Perché? Sembra che praticamente hai un fazzoletto. Ah, di naso? Di naso? No, proprio la bocca. Ah, la bocca. Devo rifare? Tipo, no, basta. Lo rifare, pure, hai già fatto una volta, basta, avanza. Vabbè, ma è una cosa professionale, insomma, da radio, non lo so, radio Pinco Pallino. radio ci sono anch'io. C'era una radio anch'io. Vabbè, allora, ripartiamo in termini abbastanza generici, e però il microfono sta andando un po' sì, infatti un po' male, eh? aspetta. Allora, partiamo, sì, poi in realtà ho dovuto stoppare il mio caro collega perché sta parlando col microfono al contrario e di conseguenza, caro mio, se tu parli col microfono al contrario, cosa vuoi che esca? Hai ragione, questa vabbè, sono piccole nefandezze di momenti tragici e niente. Sono anche questi comizi d'amore. Comizi d'amore, questi, bravo. Comizi d'amore, sì, erano un po' diversi i comizi d'amore. No, quelli originali. Quelli, questi qua sono comizi, insomma. Comizi elettorali. Elettorali e basta, insomma. Un po' tutto, meglio di quegli altri. Con tutto il connesso e l'annesso. Soprattutto l'annesso. Vabbè, comunque rientriamo in maniera più decente, dato questo ingresso abbastanza deflagrante e dirompente del mio microfono girato al contrario. 451 frammenti sonori ritorna con una trasmissione che abbiamo cercato di riproporre attraverso un canale differente e sviluppando un argomento che in parte è stato affrontato in passato, ma con una declinazione assolutamente differente, nell'obiettivo di costruire una puntata, una trasmissione che ci portasse dentro qualcosa di immediato, qualcosa che ci avvicina anche al nostro vivere quotidiano, l'immediatezza, il fatto di essere proprio dentro le questioni e affrontarle in maniera diretta e appunto puntuale. Non siamo più nel momento storico in cui si procrastinava, si pensava ad altro, si aveva forse anche una mira e un obiettivo un po' più alto. Qua siamo ridotti al minimo totale e su tutto dobbiamo risolvere velocemente. Su questa indagine sociologica e politica anche del nostro vivere quotidiano abbiamo cercato di trasporla attraverso un argomento musicale. Siamo arrivati a musica immediata, all'impro di nuova generazione. E sì, estemporaneità, come appunto quella che informava buona parte delle generazioni 60 e 70, di improvvisazione radicale, ma non solo, anche di musicalità altre, alternative, antagoniste, e da quella genia, strepitosa genia, riportandoci poi ai nostri giorni, più che un atterraggio, direi che proprio una caduta verticale, ma questo probabilmente è anche interessante perché cadendo succedono anche cose molto molto importanti, perché non sempre, insomma, questa caduta, e se dobbiamo citare anche una delle cose belle che ci è successa in questi giorni, di vivere, di vedere, ovvero Martone con Noi Credevamo, assolutamente, che consigliamo vivamente, sul serio, riporta quell'immediatezza, seppur parlando di 150 anni fa, poi capirete anche andando a vedere il film, o se l'avete già visto probabilmente già siete sulla nostra onda, come discorso, insomma, sui generis. Immediatezza, estemporaneità, voglia di comporre in maniera diretta, anche dirompente, come diceva prima Eliseo. L'impro è questa musica che si ciba di queste esperienze appunto non mediate, ma come abbiamo titolato questa trasmissione, immediate. Mandarin Movie, una sorta di possibilità nuova data dall'impro, da personaggi come Mazurek, Rob Mazurek, personaggi come Alan Licht, che di fatto hanno fatto, scusate il giochino di parole, nuova, un'attitudine che comunque è più che decennale, però non si sono fermati assolutamente alla forma, sono andati alla questione centrale, al cuore, forse alla emotività che batteva dietro queste musiche, alla rabbia e anche alla composizione decomponente, decomposta delle grandi musiche improvvisative. Musica immediata, quindi l'impro di nuova generazione, Mandarin, disco del 2005, e iniziamo quindi questo lungo percorso che ci porterà nei meandri. Chissà. Nei meandri. A 150 anni fa. A 150 anni fa. Noi credevamo. Noi credevamo. Potremmo fare anche così un sottotitolo a trasmissione. Bravo. Noi credevamo. Ok. Crediamo ancora. Però. Eh sì, infatti. Lavoro veramente eccezionale questo di Mandarin Movie, un disco omonimo tra l'altro, il 2005-2006, non si capisce bene come datarlo, qualcuno lo data 2005, qualche un altro 2006, e dove veramente si muovono i due grandi, Alan Licht e Rob Mazurek, su territori vastissimi. In sottofondo abbiamo delle musiche che sembrano quasi evocare certo Davis filmico, e poi altri momenti che addirittura si danno ad approcci quasi interamente elettronici. E, un disco che si nutre veramente di grande creatività, e in questo senso sicuramente Mazurek, che è più vicino al jazz rispetto a Alan Licht, sicuramente si rifà alla grande musica creativa del post-free, quindi dell'ambiente di Chicago. Tra l'altro una delle sue formazioni più conosciute è proprio la Chicago Underground, sia duo che quartetto che addirittura anche orchestra. E Alan Licht ci mette quella voglia malefica di rumore, e il tutto trova veramente una dialettica molto importante per quello che sarà poi la sperimentazione di nuova improvvisazione che anche da questi dischi nasceranno, sia Licht come altri personaggi, Kevin Drum, Jim O'Rourke, Rob Mazurek. Ci potrebbero essere veramente non tantissimi, ma alcuni tra i nomi più importanti degli ultimi decenni musicali, che hanno dato proprio una vera e propria forma nuova alle musiche di genia improvvisativa. Rimangono fermi grandi maestri come Dirk Bailey, Evan Parker, buona parte insomma anche appunto della Chicago creativa, Anthony Braxton, Art Ensemble Chicago, chiaramente nomi famosissimi per quanto riguarda il post-free, musiche creative, improvvisative, radicali. Veramente si possono usare tante terminologie, in realtà poi musiche liberate che vivono appunto di questo processo assolutamente immediato, e quindi di voglia anche di rompere i steccati e di creare veramente un mondo proprio nuovissimo lì sul momento, istantaneo, estemporaneità, che appunto con Mandarin Movie, con i personaggi che prima abbiamo citato, sicuramente è ritornata a vivere, seppur in una maniera più isolata rispetto al progetto collettivo, alla grande rivoluzione musicale, e non solo quella linguistica, e addirittura per un momento quasi sociale anche, che attraversò insomma il periodo storico infuocatissimo dei 60-70. E per continuare su questa linea connessa a questo splendido disco di apertura di stasera, Mandarin Movie, e andiamo a pescare, è una cosa abbastanza rara per noi di 451 frammenti sonori, non che siamo preclusivi a priori nei confronti di certa musica sperimentale italiana, ma sicuramente ci è capitato non molto spesso di inserire progetti italiani dentro la nostra trasmissione, e quando succede ci fa solo che piacere. In questo caso una formazione che già conoscevamo, ma che non avevamo ancora avuto l'occasione di inserire all'interno di una tematica di 451, è il progetto Ossatura. Ossatura è un progetto tra i più interessanti della scena connessa all'impro della fine anni 90, inizio anni 0, per il fatto che a differenza di molti altri progetti improvvisativi che vivono e producono in Italia, non si rifà in maniera quasi pedissequa nei confronti dell'impro degli anni 60-70, ma cerca appunto variazioni, personalità e nuove strade da ricercare. Ossatura, composta da Elio Martuscello, da Fabrizio Spera e Luca Venitucci, realizza soprattutto con il disco Verso, che è il secondo disco uscito per Ossatura nel 2002, di coniugare l'improvvisazione tra strumenti analogici, acustici, oggetti e anche e soprattutto elettroniche, strumenti autocostruiti e anche ovviamente registrazioni sonore da tape o sampler, che vengono utilizzati in una dialettica continua appunto nella composizione con le altre fonti sonore che vengono utilizzate ciclicamente ovviamente abbastanza consuetamente all'interno dei progetti improvvisativi. Da Ossatura, ripetiamo, uscito l'ho detto Elio Martuscello, te lo sei detto perso. Solo Maurizio Elio Martuscello, Fabrizio Spera, Luca Verito, lo diciamo agli ascoltatori. Max probabilmente diceva Martuscello, che è un bel personaggio, no, della sono musica. Due fratelli, insomma, Fabrizio Spera e Elio Martuscello, ci sa anche arrivare le cose un po' a casa qua. Vabbè, gli ascoltatori capiranno, siamo un po' così stasera, non preoccupatevi, non è niente di siamo grave. Stati peggio, siamo stati anche peggio, ma potremmo stare anche meglio, ecco, possiamo anche dirlo questo. Vabbè, comunque, Verso è il disco uscito, il secondo, che appunto tende a variegare molto di più a livello sonoro il proprio percorso, e abbiamo selezionato da questo disco uscito per la Rare, dunque un'etichetta anche abbastanza importante sulla scena della musica d'avanguardia, il brano Introspettore. Dunque non introspettiva, ma introspettore. Tu sei un po' introspettore. Anche intro. Molto intro. Molto intro. Anche impro, dai. Anche no, impro la facevo anche una volta, adesso dai. Magari ci sarebbero stati anche bene i Triplex. Così do una traccia. Ne do tre. Una sola. Che sei un grande dell'apocalisse. No. Va bene. Ossatura, Verso 2002. Andiamoci ad ascoltare. Ossatura, Splendido Lavoro Verso, dove l'impro dice qualcosa anche all'Italia, ma non solo, poi visto che sono musiche internazionaliste, poi di fatto, visto che si cibano veramente di composizioni estemporanee e di idee e anche costruzioni che provengono da veramente un linguaggio globale, come d'altronde insegna anche questo pezzo di Ossatura, come prima Mandarin Movie, elettroniche, jazz, però con rimandi che vanno anche verso certe forme psichedeliche, verso certo noise, certa maniera bruttista di intendere le musiche, il concretismo, eccetera eccetera. Un mondo veramente straordinariamente variegato, che è stato ripreso da una nuova generazione alla fine degli anni 90 e che tuttora è più che viva e vegeta, è proprio decisamente creativa, anche se molto, come dire, molto attenta anche a quelli che sono stati i suoni dei grandi maestri. E da Ossatura andiamo verso una formazione invece che non è particolarmente conosciuta nell'ambito musicale improvvisativo, anche se all'interno ha un personaggio che invece è abbastanza conosciuto per aver fondato una formazione che negli anni 90 e in parte anche negli anni zero ha costituito una delle formazioni cardine di un certo jazz aperto a mille sfaccettature, anche a forme rumoriste, fino ad arrivare anche delle forme impro, cioè i Super Silent, ed è il personaggio Arve Henriksen che è presente anche in questo progetto che è denominato Food, progetto che in realtà vede due musicisti scandinavi, ma anche un musicista inglese, Ian Bellamy, che appunto è quello che ha portato avanti il progetto e ha praticamente costituito anche la stessa etichetta discografica che ha prodotto i lavori dei Food. Questa è la formazione, la Feral Records, e questa formazione Food che indubbiamente ha all'interno delle proprie produzioni ben 5 album, anzi 6, uscito uno oltretutto nel 2010 per l'ECM, ma anche per la Rung Gramophone successivamente, mentre il disco che abbiamo selezionato stasera è un disco appunto dell'etichetta di Bellamy inglese, Feral Records, uscito nel 2001, Organic and GM Food, un disco che si muove tra un jazz che ricorda in parte certe aperture dei Chicago Underground, ma anche di un certo suono legato all'Isotop 217, ma in alcuni brani si contraddistingue per un suono abbastanza alienante e alienato, quasi etereo, distaccato, con spazi e tempi abbastanza strani, quasi inafferrabili, e questi ci hanno interessato di più, perché all'interno di queste sfaccettature sonore c'è una sorta di impro piuttosto eterea, quasi appunto impalpabile, ma che rende i brani estremamente affascinanti, che ci hanno indotto ad inserirli all'interno di questo percorso di stasera. Subito dopo andremo subito a collegare, dato che il tempo è tiranno, ve lo annunciamo già in anticipo, un brano invece anche questo abbastanza strano per la formazione che andremo a presentare, che sono i Pelt, che già più di una volta abbiamo inserito in 451 frammenti sonori, una delle formazioni cardine che il buon Gino sicuramente conoscerà, perché fa parte di tutta quella corrente connessa alla folk and drone, e che in questo disco Dolphin Elegies del 2008, il penultimo disco uscito per i Pelt, invece in un brano, ma forse anche due, escono completamente anche dai propri droni ben conosciuti, si muovono su delle dimensioni anche qua abbastanza strane, quasi tra sogno e incubo e dimensione appunto quasi da terra di mezzo, e insieme anche con un altro brano quasi si avvicinano a una impro molto connessa alla contemporanea. Ci andremo ad ascoltare un piccolo frammento e poi rientreremo dopo il GR di Radio Popolare Network. Intanto buon ascolto con i Food e dopo Pelt. Bye.